America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. È stata la settimana, questa che si sta chiudendo, la settimana di Facebook. C'è stato un roadshow, c'è un prezzo per andare in borsa, una raccolta stimata in circa 96 miliardi di dollari. Pensate, una cifra che alcuni considerano folli, per esempio Warren Buffett, il grande guru della finanza americana. Eppure si scommette su che cosa? Si scommette sul futuro e su questa rivoluzione culturale che è in corso, la rivoluzione del social network, del social media, dell'interattività. Interattività che funziona attraverso degli strumenti, per esempio l'iPhone, l'iPad, gli smartphone soprattutto, che dovrebbero rappresentare il 50% del traffico da qui ai prossimi anni. C'è anche l'idea di una nuova televisione che dovrebbe essere presentata dall'Apple. Sentiamo Walter Isaacson, che ha scritto la biografia autorizzata di Steve Jobs. He knew the couple of things he wanted to do, which was the iPhone and then the iPad. He had a few other visions. I think he would have loved to have conquered television. Ecco, Isaacson parla della visione di Jobs, dell'iPhone, dell'iPad e della sua visione per una nuova televisione che dovrebbe consentire una maggiore interattività. È un fatto che va passo passo coi tempi. Si dice che questo nuovo prodotto Apple sarà presentato forse durante l'estate. Vi dicevo, è un prodotto che tiene il passo coi tempi, perché uno studio della Accenture presentato qualche giorno fa ci dice che fra 1000 spettatori televisivi fra i 18 e i 24 anni, il 60% nel momento in cui guarda la televisione usa altri social media. Dunque il fenomeno culturale è già straordinariamente attivo. Nel momento in cui guardano la televisione interagiscono mandando messaggi su Facebook, messaggi su Twitter. L'Italia, secondo me, su questo resta un po' indietro. Allora vorrei intanto approfittarne per lanciare un piccolo esperimento. Io ho un indirizzo su Twitter, @ Mario Platero, e vorrei vedere quanto si può trasferire dell'utenza radio, un'utenza più tradizionale, su un'utenza internet. Quindi vedere se qualcuno degli ascoltatori che in questo momento sta ascoltando può andare o può collegarsi su internet. Quindi facciamo quell'esperimento che aveva fatto Accenture in modo più scientifico. Ma vorrei dire che c'è una parte culturale importante. Il nostro giornale ha lanciato un manifesto culturale, perché cultura ed economia poi vanno strettamente a braccetto. Non dimentichiamo dunque che parte della cultura c'è anche questa rivoluzione del social network. Ecco, di tutto questo vorrei parlare con Luca Conti, blogger italiano, uno dei primi blogger, giornalista, collaboratore di 924. Buongiorno Luca. Buongiorno. Beh, intanto raccontiamo la tua storia. Quando hai cominciato a fare blogging? Beh sì, ormai quasi 10 anni fa, nel dicembre del 2002. Ti sarai sentito molto solo, immagino. Ma in realtà no, ero già in buona compagnia. Oggi senz'altro la compagnia si è allargata. Tu hai sentito quel che ho dato un po' come presentazione di quadro di insieme. Ci sono un po' di domande che ti vorrei fare, perché la sensazione è che, per quanto oggi tu ti trovi con una compagnia più allargata, l'Italia è un po' indietro. Non siamo ancora sui livelli magari di altri paesi europei, sicuramente non di quelli americani. È vero? Te lo confermo. Ci sono dei dati Nielsen AudiWeb che dicono che gli italiani si collegano meno e hanno meno banda larga, ma quelli che sono attivi, che si collegano tutti i giorni, sono un nucleo più ristretto, ma che ha gli stessi comportamenti che hanno gli americani. Ecco, secondo te in Italia ci sarà un potenziale di sviluppo importante come c'è stato in America, oppure non siamo tagliati? Come per altri versi abbiamo un ritardo, credo, stimabile in un paio di anni. Quello che sta avvenendo oggi in Italia, che è avvenuto negli ultimi 6 mesi con l'innamoramento dei giornalisti italiani per Twitter, è ciò che negli Stati Uniti è successo tra il 2008 e il 2009, quindi credo sia solo una questione di tempo prima che prenda piede su larga scala. Qual è la tua valutazione di Twitter rispetto a Facebook? Perché so che ci sono vari analisti che danno delle interpretazioni diverse. Qualcuno è anche pessimista su Twitter. Alla fine non ha la stessa flessibilità per creare flussi, diciamo, user friendly come può fare Facebook. Facebook ha sempre avuto una dimensione privata, nasce come network di amici e oggi ha l'ambizione di diventare uno strumento di informazione o di influenza dell'opinione pubblica. Twitter nasce invece dal lato opposto, nasce come uno strumento di comunicazione pubblica, e questo è il suo punto di forza anche oggi. Quindi i grandi giornali lo usano per diffondere notizie, e soprattutto negli Stati Uniti e UK gran parte del traffico social per i giornali viene proprio da Twitter. Il problema di Twitter è che oggi fa una cosa, la fa bene, ma non è detto che sia sufficiente per sopravvivere nella guerra contro i colossi come Google e Facebook. Perché questo? Perché le funzionalità di Twitter piano piano vengono copiate anche dagli altri. Se andiamo a vedere l'evoluzione di Facebook nel tempo, per esempio della funzione aggiornamento di stato, è sempre più simile al tweet di Twitter. L'evoluzione di Google Plus, che è il social network di Google, che è nato da meno di un anno, ha copiato un po' da Facebook e un po' da Twitter e ha messo insieme 170 milioni di utenti che è vero non sono particolarmente attivi, ma hanno dietro il potenziale finanziario di una società come Google. Io e te poi, tra l'altro, ci siamo incrociati su Twitter, anche così dibattendo un pochettino che tipo di flessibilità avesse dal punto di vista della banca dati. Io ero un po' più perplesso, tu eri un po' più ottimista. Ecco, secondo me su Twitter un problema resta, cioè non c'è ancora una funzione user friendly che consente di fare motore di ricerca. Secondo te la faranno? Intanto sei d'accordo su questo, che la funzione user friendly in questo momento non c'è, cioè ci sono altre funzioni ma più complesse. Twitter ha il suo punto di forza e il punto di debolezza per essere pensato come struttura per il real time, quindi se io cerco una cosa rispetto a un fatto che è successo 5 minuti fa, su Twitter trovo delle informazioni, su Google non le trovo. Se cerco qualcosa che è stato detto in una conferenza che è stata semplicemente 2 settimane fa, è quasi impossibile che riesca a trovarla, quindi effettivamente sono d'accordo con te. Ecco, quindi la banca dati è un passaggio obbligato, secondo me, per Twitter. Lo faranno? Il problema di Twitter credo sia un problema tecnologico al momento attuale, che sicuramente può essere risolto nel medio termine. Oggi vengono pubblicati circa 350 milioni di messaggi ogni giorno, quindi un volume altissimo che viene indicizzato da gruppi terzi che possono accedere direttamente all'idrante di Twitter. Quindi per adesso è un servizio che Twitter ha già reso disponibile nell'ambito business, che poi lo usa per esempio per gli hedge fund per cercare di capire il sentiment del mercato, investire in un modo o in un altro. Per il pubblico generalista forse è una funzione che al momento non viene data come prioritaria e quindi non è in testa alla lista delle preoccupazioni degli sviluppatori di Twitter. Luca, allora, dunque, per chiudere, Gianluca Nicoletti su Radio 24 dice che il successo di Twitter è gonfiato perché permette a persone che hanno già una certa notorietà di far parlare di sé. Primo, sei d'accordo? Secondo, perché non dai una spiegazione ai nostri ascoltatori che magari non sono molto familiar con Twitter di quali sono vantaggi e pregi di questo strumento che in Italia si sta ancora affermando? Sulla prima domanda sono d'accordo con te per una semplice ragione: circa la metà degli utenti che attualmente usano Twitter nel mondo, sono 140 milioni, non hanno mai scritto un messaggio, ne hanno scritti meno di 5, per una semplice ragione che è la seconda risposta che ti do, ovvero usano Twitter come se fosse un'agenzia di stampa personalizzata globale. Quindi io lo uso selezionando i profili da seguire, che possono essere America24, New York Times, Luca Conti, l'azienda XY, le Nazioni Unite, e da loro ricevo informazioni sotto forma di messaggi di 140 caratteri in tempo reale, quindi un modo per mantenersi informati che usano i grandi manager, i giornalisti, ma anche i comuni cittadini che vogliono andare direttamente alle fonti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, il nuovo album dei Beach House uscirà il 14 maggio, titolo Bloom. Questo duo di Baltimora ha anche annunciato un tour europeo degli Stati Uniti. Non ci sarà una tappa italiana. Dei Beach House, Myth. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!